Matteo, buongiorno. Sì, Matteo. buongiorno, sono Matteo, sono dalla provincia di Treviso e sono uno sci alpinista di buon livello, devo dire. E non siamo staccavalanghe, come si sente dire molto, molto spesso, a noi piace andare in montagna come a quelle persone a cui piace fare trekking o le ferrate o qualsiasi altra attività. Sto notando in questi anni che sono soprattutto le strutture, diciamo, gli ambiti controllati dell'alta montagna che sta rovinando veramente la montagna, nel senso che non posso permettermi di portare su delle persone a 3-4 mila metri in scarpe da ginnastica e pretendere che rispettino le regole del tempo che cambia, della nevicata improvvisa, della nebbia. Ecco, questa è la mia riflessione. Cioè, quello apparente aggiunge, conferma quello che diceva prima l'altro nostro ascoltatore, che al di là, diciamo, dei maniaci delle attrezzature, dei materiali, di quelli che comunque devono avere sempre l'ultimo grido nel campo di ogni oggetto utile per affrontare la montagna, sono anche quelli che la prendono con grande superficialità, vanno su in gita con le scarpette come se andassero, non so, a fare una passeggiata in piazza.